Se volete fare il vostro lavoro, fatelo. No, no, no, non si preoccupi, vada tranquillo e basta, mi hanno mandato via. Però è chiaro che in un contesto del genere ci può anche stare, ma secondo chi trovi ti ingessa. Beh, ciao Giulio Volpe, l'ho sentito. Ciao, ciao Tony, ciao Claudio. Vabbè, c'è gente che ha fatto una contravvenzione alla moglie, perché non c'è da meravigliare. Alle volte, anzi, tutte le volte gli amici sono vigliacchi e basta. Prima bevono e magari li paghi anche da bene e poi ti danno il premio appena gli capisci a puntino. Succede molte volte questo. Quelli sono miserabili, sono persone miserabili comunque. Non sono persone oneste quelle, assolutamente. Vai qua. Ehi, ma questo è mitico, conosciuti sicuro a tutti, adesso in pensione, conosciuto alla grande, beve va con, perché poi lo conoscono tutti, il lavoro che fa, beve va e poi ti aspettava fuori, lui ci prendeva un caffè, una bibita, capito, vedeva com'era l'andazzo e poi si appostava, capito, siccome era lui il responsabile, il capopattuglia, e quindi dice, beh, fermati qua e facciamo un posto di controllo, dice, ma fermati qua, poi ti faccio vedere una cosa. E le ritirava, gli ritirava le patenti e multe che non metteva. Gli avevano ingessato una o due volte, gli hanno anche incendiato la macchina, hanno fatto un sacco di cose, capito? Però ci cadeva lo stesso, e vabbè. Avanti Tony. Vabbè, ma queste persone prima o poi vanno anche. Trovano il suo, perché ci trovi quello che mi è incazzato, mi deve fare gli spinti, glielo fa pagare, ovviamente. Andrà bene, meglio se non entra Emanuele, poi ci vado a prenderlo, fai qualche commissione, veloce. Avanti giù. Ok Tony. Ma ci sono queste persone così, queste sono dei veri vigliacchi, dei grandissimi farabutti, però tutto sommato la legge la stanno applicando, quello già è vero, però è da vigliacchi, perché io posso capire, la persona non la conosci, ma se fino a 5 minuti prima eravate insieme, hai bevuto magari con il soldo di questo tuo amico, poi lo fermi e gli fai anche la multa, magari gli prendi anche la patente perché gli hai fatto il chilometro, non è possibile. Quanta malvagità che c'è in questo mondo, non è possibile. Comunque, siamo esami. A me non mi butto in mano, perché io non bevo mai alcolici, per cui no. Possono fare 10 di chilometri a me, non mi frega niente. Perché tanto io bevo solo acqua, per cui va bene così. Vai qua. Beh, anch'io. Certe situazioni magari bevi un bicchiere di birra mangiando la pizza e ti vedi insomma questa cosa non è brutta, perché se uno non è ubriaco ha bevuto un bicchiere di birra mangiando o un bicchiere di vino che fa sempre bene mangiando, non succede assolutamente niente. Mari è chi si ubriagheggia e poi prendono la macchina, non vedono neanche la strada, te ne piombano addosso, come è già successo in questi giorni. Tassi alcolici, fumo, droga e bim bum bam. Avanti Tony, ho sentito sotto qualcuno, chi era? È stato Emanuele, avanti Emanuele. Sì, buonasera a tutti, ciao Claudio, ciao Giulio, Tony. Scappa, dai, io mi tiro le scarpozze, è stato smuola con loro, dai. Ok, grazie, dai, d'accordo, per le 9:30 per domani allora. Adesso mi preparo qui, poi posso prendere Emanuele. Ciao Giulio, Cicco, ci vediamo tra poco. Eia, va benissimo Tony, sì, a quell'ora io sono già a Sassari. Ok, ricordati, va bene niente, e quei due connettori ce li ho io. Emanuele, metti la macchina già la stasera, Emanuele, quella adesso che sta venendo a prenderti. Quella roba lì, così domani mattina la sistemiamo, ok? Sì, infatti ti ho detto prima, Tonino, che la prendo, così almeno ce la fermiamo. Se non puoi mai domani mattina con la pressa, vi dimentichiti, ed è un casino. Va bene, ok, dai, Tonino sta venendo a prenderti, quindi buona passeggiata e buon tutto, poi noi già ci vediamo domani. Avanti Giulio. Ok, ciao Tony, se ti è ancora all'ascolto. Ciao Emanuele. tanto salgono i contagi, sto leggendo, 845 contagi in 24 ore. Allora, solo in Lombardia, 150 solo in Lombardia. Boom, boom. Vabbè, vabbè, comunque, lasciamoli fare, lasciamoli aumentare. No, tornando al discorso bevanda, no, io non bevo mai, nemmeno la birra, non mi piace più, assolutamente, niente alcol, niente, né alcol, né fumo, mai fumato e mai bevuto, non mi piace più la bocca, l'alcol assolutamente, nemmeno la birra, anche se è poco alcolica. L'unica cosa alcolica che bevo io è l'acqua minerale con le bollicine. Bene, va così, Manuel. La sua vettima qui più qua, ma forse come qua, oh va. Là, Giulio, lo so che non vedo, ma fa bene anche le altre, perché non posso fare poi, bevo, infatti, spieghiamo una cosa, cosa hai fatto? Ma hai spostato di nuovo l'antenna? Perché stai uscendo più basso del solito. Vabbè, la radio già è buona lo stesso, però di segnale stai uscendo più basso del solito, hai spostato di nuovo l'antenna? Ma chi è? Emanuele? Emanuele, sì, Emanuele. No, forse l'hanno chiamato, poi ce lo dirà. No, qua il segnale è sempre buono, 9:10. Va bene, anche tu sei abbastanza alto, un po' fa importante l'amicidiale, che oltre il 9:20 era molto forte. Va bene, e di domani mattina una mano a Torino deve spostare anche lui l'antenna, sistemarla bene, perché era un po' precario, così per l'inverno tutto a posto. Tanti domani sono libero, perché poi quando rientro al lavoro non posso più far nulla, approfittiamo, domani sono libero, vengo a tirare una mano e fermo tutto, così siamo tutti a posto per l'inverno, perché poi ci sono io. Sono io e con l'amore devo tagliare il tubo di sostegno perché non ce la facciamo a scenderlo, è un casino. Bisogna tagliare lì, buttarne tutto a terra. La mia già in giardino per quello. Adesso sei tu, vabbè. Ma poc'anzi come mai ieri Santiago 7? Ma sei 9:15 quasi, cioè 9:10 volevo dire. Era prima di Santiago 7, come mai? No, l'ho commutato con l'altra antenna piccolina o giù. Ah, e allora già avevo visto bene, sì. Lo so qua, è d'altronde così. No, io, ripeto, tu lo sai, quel problema che mi si è verificato quei giorni scorsi, non so cosa sia, ma sicuramente il cane, perché se io aumento di potenza, e allora incominciamo sicuramente ad andare male come in quei giorni scorsi, anzi adesso provo, ecco, adesso ho aumentato di potenza e magari può essere che in questo momento non stia succedendo niente, però fra un po' magari si risente quel gracchiare del sporco che si sentiva prima, vai qua. No, adesso sta andando bene, e speriamo che lui accendia. Conta, da fine giugno che non lo accendo, siamo a metà agosto, speriamo che accendia. Su 4:30 non ho problemi, sicuramente accende e funziona benissimo, 4:40 non lo so se accende, è già quasi due mesi e spento, vabbè, forse anche sui grembiati, già ogni volta il radio mi interessa. No, sta scendo bene. Ok, se do un'altra piccola sensatina, è così è un'altra sensatina ancora, può darsi che, vabbè, comunque me lo dirai, dai, avanti Emanuele. Ne approfitto, dai, che è arrivato il Torino, ci sentiamo a casa mai stasera, ok. Ciao Giulio e Claudio, noi già ci vediamo anche domani. Buona serata. Ciao Manuel, ehi, metti quella roba in macchina e poi già ci sentiamo stasera. E già ci vediamo domani, ciao a tutte e due, vai giù. Ok, ciao Manuel, saluto lui, arrivederci. Adesso ho dato un'altra sensata, non so se sta andando bene adesso, perché ogni tanto li guidiamo con un gambo che ho goso a questa specie di radio. No, sta andando benissimo, alla grande. Ascolta, stai attento a questa Max con il Tavel più 3. Ok, questo è l'Elba e Scoltarne più 3. Siccome mi ho portato anche l'Inuit, però è con l'MB più 5. Così mi dice, secondo te qual è la modulazione migliore? Ok, questo è l'Elba e Scoltarne più 3. Guarda, lo accendo e cambio il connettore, che non ce ne ho commutatore. E mi dici se è meglio questa o l'Inuit. Ricordati, questo primo passaggio è l'Elbex, starne più 3, ok? Ok, prova. Questo invece è l'Inuit è quello base con l'MB più 5, qual è migliore? Questo è più amplificato, questo è più bella, secondo me, ha un po' più di amplificazione ed è pulitissima la radio. Come segnali si equivalgono, sono uguali. Per cui non c'è problema. Però come radio è bellissimo anche l'altro, sia ben chiaro. Sono tutti e due, una meglio dell'altra. Però questa mi sembra un tantino più forte anche. Adesso bisogna vedere chiaramente il volume che hai dato al microfono. I microfoni sono tutti e due, il tane più 3 se no è troppo acuto. Il tane più 3 ce l'ho a 1, 2, 3, 3 e mezzo, dai, 4. Mentre l'MV più 5 è a 5, a 5 con i toni a 2. No, la potenza è uguale perché danno gli stessi watt. 6 watt uno e 6 watt l'altro, no, non cambia assolutamente niente, l'antenna è sempre la stessa. Quindi secondo te è più bella questa? Sì, questa qui ha più amplificazione, però ripeto, anche l'altra è bellissima ugualmente, no, non c'è problema. Questa ha un po' più di amplificazione. Questa secondo me si rassomiglia di più al K, in poche parole, come modulazione. Si rassomiglia di più rispetto all'altra, perché l'altra rimane leggermente più chiusa rispetto alla modulazione tradizionale col K e con il 60, insomma. Ah, capito. E infatti con questa mi dicevano sempre che si assomigliava molto al K, Roberto. No, funziona bene, questa è quella che mi aveva dato Gianni, funziona molto bene. E l'ho portata perché era è 220, capito? Infatti ho detto, se questa funziona bene, visto che è 220, ne tolgo l'alimentatore e il baracchino, lascio questa con il mio MB più 5. E quella là me la riporto a casa, capito? C'è un vento caldo allucinante, però non è perché c'è il maestrale, quindi sicuramente tra la temperatura che siamo ancora a 30 gradi ci deve essere qualche incendio, perché c'è troppo vento caldo e il maestrale non riesce ad abbatterlo. Sì, è probabile che magari ci sia qualche incendio, del resto tutti i giorni la Sardegna un po' da una parte, un po' dall'altra c'è sempre fuoco. Anzi, quei giorni passati addirittura c'era uno schemario, c'era nel giornale, no? E c'erano tutti gli incendi che c'erano previsti in giornata dalla Sardegna, ed era quanto territorio c'è tutto circondando la Sardegna, ecco, uguale, tutto incendi, mamma mia, io guardo, poi c'è proprio veramente forte, eppure è passata anche quella. Sì, beh, anche oggi c'è caldo abbastanza, non si può dire di no, ma tutti i giorni chiaramente, anche la notte lo stesso c'è molto caldo, infatti tante volte è anche fastidio a dormire con questo caldo così. È fastidioso, speriamo che cambi a fine mese un po' il tempo, se no mi tolgo in occhi io, ci vado a morire a casa. C'è mia figlia ieri, ha tolto la posta, ha detto c'è un caldo a Sassari allucinante. Sì, c'è caldo, ma molto veramente. Io quasi sto aspettando che le giornate diventino un pochino più fresche, così almeno faccio qualcosina qui a casa, che ho intenzione di fare una cosa sui Massata, per cui devo comprare legno e tagliare. Però devo aspettare che faccia meno caldo, perché se no non è possibile lavorare con questo caldo. Aspettiamo, già rinfresca, vedrai che già rinfresca. No, ma ti dirò, io stavo guardando anche i venti e sono sempre da nord, nord-ovest, capito? I panteri siamo da sud, se no sono caldi. però ti ripeto, le temperature sono molto alte. Tu immaginati che oggi e domani è il picco più alto, arriviamo anche nuovamente a 37-38. Sabato sera sul tardi, dopo le 10, le 11, c'è un picco di 10 gradi in meno, scendiamo a 28, 27, 28, capite? Sabato e domenica siamo sui 27, 28 gradi, quindi è lì il problema, che il tasso di umidità è molto alto, c'è molto caldo, e poi trovi questo picco così basso e ti ingessa. Stamattina mi sono alzato presto per pulire, per fare canile eccetera, e sistemare i cani, era una iassa allucinante. Certo, ma in effetti è così. No, ma fatelo, è il caldo, tanto quello che posso, che devo fare io, faccio da casa a magazzino, per cui non contatterò e non avvicinerò nessuno, per cui posso anche farlo, il lavoro che devo fare qua, praticamente una modifica più che altro. Vabbè, però, no, perché intanto i materiali li vado a comprare nei negozi dove non c'è affollamento, certo non vado da Bricomeo, vado dietro l'altro, come si chiama, quello che c'è a Pedaniera, la Maria Sfano, vado e compro lì il materiale, lo carico sulla macchina, mi metto il portabagagli, porto il magazzino e taglio, faccio. Tanto faccio da magazzino a casa, da casa a magazzino. Tanto tu vai ad incontrare un amico, non ti vuoi avvicinare a Edo, non puoi entrare in un bar, prenderti un caffè, non puoi fare niente, sì che tanto vale. Rimaniamo tranquilli e rispettiamo tutte le regole, perché non è possibile, i contagi stanno salendo in una maniera impressionante. Poi con la patologia che ho io e che ho avuto io, potrebbero anche essere diminuite le cose, come si dice, l'immunità, e dunque potrei anche, non si sa mai, e allora è meglio rimanere riservato e soprattutto standomene tranquillo. Ah beh, scelto un attimo di bianco se vuole entrare qualcuno. E beh, così è così. No, ma anch'io, guarda, io la mattina vado lì a prendere il giornale a mia moglie, dice le dico laggiù, le dico il tabacchino, le sigarette, do un'occhiata poi alla Nuova Sardegna, prendo un caffè, macchiato, mezza gasata e me ne risalgo a casa. Ma ti ripeto, in quella situazione lì, io tutti i santi giorni vedo appunto gente che non rispetta le regole, perché se la metto io la maschina la tengo attaccata sopra il naso eccetera, gli altri entrano e hanno la maschina nel gomito. Ma che sistema è? Se vuol dire la maschina nel gomito, la maschina devi tenere in bocca e te la abbassi al momento in cui sei al bancone con la distanza di sicurezza, prendi il tuo caffettino, poi ti risollevi la maschina, vai, paghi e te ne vai, non che stai lì ore e ore con la mascherina attaccata al braccio. E a cosa serve? Infatti non serve a niente, no. Avere la mascherina e tenerla al braccio è come non averla, per cui tanto male non te ne butta nemmeno, perché stai facendo solo ridere a questo punto. Se tu vai in giro con la mascherina al braccio e magari avvicini una persona e la mascherina non ce l'hai, ce l'hai al braccio, cosa ti rendi? Te ne rendi conto? Purtroppo è così. E vabbè, no, bisogna cercare di stare più attenti possibile, non si sa mai. E vabbè, in questi ultimi mesi, da marzo adesso, sono uscito esagerando 4-5 volte, non di più. Fate il conto quanti mesi sono passati già, mi pare che sono passati 5-6 mesi a buco. Da marzo, fate il conto, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, 6 mesi, se bene non accasai, no? 5 mesi anzi, per esattezza, compreso tutto marzo anche tra l'altro. Vabbè, passerà anche questa, chi lo sa. Passerà, non ti preoccupare. Come preoccupo più tanto, perché giustamente sono alle regole e cerco di entrare in maniera molto prudente, però il problema è sempre quello. problema è sempre quello, ma comunque vedremo, tiriamo avanti, dai, che Dio ce la mandi buona, guarda voi chi c'è qua. Ascolta, ma il PMR è acceso, c'hai? Sì, ma non c'è nessuno, però qualcuno ha buttato due volte la portante, ha messo, ma non ha parlato nessuno, però. Prova a vedere se ti sento, passa lì a vedere. Nessuno! Ti ho detto nessuno! Ciao! Lupo Ghigio! Eia! Sto mangiando però, lupo! Ma Nicola, il nome! Ehi, sta cenando ben poco, non ho più voglia, c'è caldo, eccetera! E non sta entrando praticamente nessuno, almeno credo. Io accenno ogni tanto, metà serata, poi chiudo, però no, non so tra la sera presso a dire dei canali, capito Nico? Sì, niente via, niente dichiarazione di inizio utilizzo, niente 12 euro mensili, non so che senso abbia poi questa miglioria, se vogliamo chiamarla miglioria, tanto mi. Bene o male eravamo tutti in regola, almeno credo. Magari siamo meno tutelati, chi lo sa, non te lo so dire, Nico. Mamma mia, so tosse. Non lo so, però non c'è voglia anche di rifare come c'era prima, di ex così. E poi per caldo, col caldo passa la voglia di tutto, anche di mangiare. Eccomi qua. Aspetta, ciao Giulio, stava parlando con Nicola. Buona serata. Di Riccardo non so più niente, è sparito l'orizzonte. Vediamo se c'era Giulio che voleva entrare avanti. Ciao Marco, sì, c'è anche Claudio, che eravamo da poco fa, eravamo qua, poi siamo passati per una decina di minuti, un quarto d'ora siamo passati in corso, in MPR, cioè in PMR, e dunque eravamo lì, adesso abbiamo deciso di passare qua. Passo Claudio, vai qua. Ciao Marco, buonasera, ben ascoltato, già mi ha ascoltato lo stesso anche col baracchino. Sento anche basso Nicola, mi pare. Nicola, mi ascolti? E se arrivi, segnale 2, 3, ma arrivi, dai. Ti sento anch'io, evidentemente sei in una zona dove arrivi anche qua. Va bene, avanti Marco, buonasera, riprendi. Ehi, ma eravate su, là, vabbè, ho capito. Ehi, no, io qua stavo praticamente mettendo nei piatti, ho sentito Nicola chiamare e gli ho risposto, mi stava facendo il quesito dei 12 euro della concessione, che in effetti non va più fatta la DIA, dichiarazione di inizio attività, ecco, quella lì. Poi non so se sia un pregio o un difetto, cioè bene o male lo dicevo, eravamo tutti in regola, poi come dire, non lo so se siamo meno tutelati da qualche, vabbè che noi non siamo esenti dai disturbi, cioè se abbiamo disturbi da, che ne so, ripetitori TV, roba elettrica, noi non abbiamo esenzione da alcun disturbo, capito? Ci dobbiamo sorbire i disturbi. A proposito di questa cosa, io ho avuto un discorso proprio l'altro giorno con un dirigente di Cagliari, sì arrivo un minuto, sì, con un dirigente di Cagliari che ho trovato tra l'altro a Sassari qua in alle poste centrali, così, ma per caso, e abbiamo affrontato questo discorso, quindi la concessione rimane in vigore, la concessione, non si paga più il canone, non si paga più il canone. Ma se tu compri un baracchino oggi chiaramente non è che non lo puoi usare senza concessione, la concessione te la danno, l'autorizzazione te la mandano, però non c'è più il canone da pagare, è solo quello che hanno tolto, capito? Mentre invece prevale per tutti quelli che ce l'hanno già sempre la solita, non c'è da fare più niente, non c'è da fare dichiarazione di inizio attività, non c'è da fare niente, nulla. Tu chiami, io ho comprato un baracchino, vorrei, e loro ti chiedono nome e cognome, e se ti mandano il coso della un foglio praticamente che tu sei possessore di queste cose, e non devi fare altro, niente, non c'è più quella prassi di prima, capito Marco? Poi rilancio Giulio, solo che sei come l'SWL che è facoltativa, e che senso ha chiederla? Non ne chiede più nessuno SWL, nessuno, almeno credo, a meno che uno non voglia fare, come si dice, l'EQSL, facendo ascolto non mandi l'EQSL, solo che non sta diventando anacronistico persino quello, boh vabbè, comunque. Volete voi, io rilancio Giulio, però devo andare a mangiare, dai, vi devo lasciare, se no non usciamo più qua, se no ci andiamo alle 8, pranziamo alle 8, come ogni volta, dai, sentiamo, ciao a tutti, vai Giulio. Ok, ciao Marco, ciao, salutoni, buon pranzo. Sì, c'è ancora un po' di confusione in questa storia, perché stando a quello che hanno scritto sulla gazzetta ufficiale non ci sarebbe più motivo nemmeno di fare domandina eccetera, perché c'è scritto anche chiaramente, se poi loro non sono aggiornati questo non te lo so dire, però sicuramente non è molto chiara la situazione qua. Ciao Nicola, se mi stai ascoltando, ma io non ti sento come sempre praticamente. Ti consiglio di rimediare un'antenna, mettici un'antenna, così almeno finalmente potrò ascoltarti, perché se continuiamo così saremo sempre penalizzati, o perlomeno io sono penalizzato nel non ascoltarti, per cui va bene, capito Claudio? È tutto lì, si è allontanato Claudio. Break. Avanti il break. Buonasera a tutti, Gianni W. Ciao Gianni, salutoni. Claudio si è messo allontanato, forse l'ha chiamato la moglie per un attimo per vedere un po' quello che sta cucinando. Sì, e appunto stavamo parlando di questo, non so se hai seguito quest'ultimo passaggio che ho fatto o già. Per quanto riguarda il discorso concessione per il CB eccetera, stando a quello che ha detto che c'era scritto sulla gazzetta ufficiale, su cui ce l'ho sempre, io quella dichiarazione lì, quella legge, e non si dovrebbe fare nemmeno domanda più. Ma Claudio stava dicendo che ha interpellato un amico dell'area poste centrali, uno che ha le mani in materia, e dice che gli ha detto che la concessione bisogna farla ugualmente, però non si parla più niente, tutto lì ho già. Vabbè, chi ce l'ha si tiene quella che c'ha o deve farlo ogni anno. No, ciao già, no, quella nostra rimane in vigore, non scade più, non c'è più da fare nessuna altra certificazione, inizia attività, fine attività, è tutto, solo il bollettino non si paga, e boh, per il resto rimane tutto com'era. Ok, tutto com'era, ciao, buonasera. Ciao, buonasera anche a te. C'è chi dice una cosa, c'è chi dice l'altra, poi si diceva che non si doveva fare manco più la concessione addirittura. E vabbè, tanto io ce l'ho, non mi interessa. Interessante, anche le 12 euro non è che non mi creavano nessun fastidio pagarle. Più che altro il fastidio era andare alle poste, tu lì fare la fila. Poi per le 12 euro e tanto non è che fosse un grosso fastidio, anzi. Almeno eravamo un po', diciamo, tutelati, se così si può dire. Invece per il radiomatore non è cambiato niente, certificato di attività, certificato di azione generale, pagamento a 5 euro all'anno, le autorizzazioni per noi sono rimaste uguali, cambiato solo per la banda CB e basta. Vabbè, ma non mi interessa. Va bene, vediamo un po' Marco come se ne sia andato a come si dice, a mangiare, io poi faccio un altro passaggio e vi lascio perché mi devo pulire il pesce. Vediamo Nicola se arrivi ancora. Nicola, Santiago 3 stai arrivando, la radio è un po' bassina, ma comunque riesco a tirarti fuori. No, assolutamente negativo, non si pagano più, tassa di concessione governativa non ce n'è più, rimane il fatto che chi ha l'autorizzazione rimane con l'autorizzazione vecchia, chi deve fare inizio attività compra un baracchino non ha bisogno di niente, ha bisogno solo di comunicare, le mandano un foglio che praticamente è un certificato di possesso, in pratica, ecco, quello che mi ha detto sto funzionario, no Giulio, è una persona che è da poco in pensione, ma nel settore è abbastanza preparato, non ti preoccupare. Quindi stavamo parlando proprio della parte amatoriale, ma detto, no, per noi non è cambiato assolutamente niente. La parte CB c'è questa modifica, ma niente di che. Va bene, riprendi Giulio. Ok, beh, sicuramente c'è un po' di confusione, però stando a quello che hanno scritto sulla gazzetta ufficiale non c'è bisogno nemmeno di fare quello, poi nemmeno va bene, se non sappiamo come sono le leggi italiane, sono sempre fatte e non sono mai chiare del tutto, per cui, ma comunque a noi poco ci interessa ormai, siamo veterani di questa frequenza, poi al limite se c'è da fare di nuovo la concessione la facciamo, perché non ce l'ha ancora e non è un problema, tanto fare una piccola domandina non fa male a nessuno. Va bene, e mi dispiace che non riesco a sentire a Nicola e a lui se non si attrezza con l'antenna, mi sembra che sia anche ora o Nicola di attrezzarsi l'antenna, se no non è possibile così, non è possibile assolutamente ascoltarci. Vabbè, avanti Gianni. Mi dico, se ti interessa ne ho una con base magnetica per la macchina da vendere, se ti interessa la sto vendendo completa di tutto, anche di PL, tutto quanto la sto vendendo, tanto che macchina non la metto più, l'avevo comprata per metterla nella macchina, ho cambiato idea adesso. E se vuoi ti do il mio numero di telefono, non c'è problema, o se hai il numero di telefono di Claudio o di cosa te lo fai dare. Ma io non so, Marco, non l'ho mai visto, non conosco. Vabbè, ma io il numero di Franco non ce l'ho. Vabbè, te lo do in radio, non c'è problema. 340, scrivitelo. Quello ne parliamo in verticale. Ma quando? Allora, io stasera sto aspettando gente a casa, quindi non posso venire. Devo venire a casa a cena delle persone, quindi non posso. Ci sentiamo un altro giorno, è anche buona come antenna, questa qua è molto buona come antenna, è piccola e sincera. Io abito dietro via Bandetta, se sei dove via Bandetta, abito dietro via Bandetta, e dove vuoi, non c'è problema. Però stasera, ti ripeto, non ce la faccio, a meno che tu sei in macchina, vieni tu a casa e te la faccio vedere, se ti interessa, è nuova, l'ho usata due volte. Ehi. Va bene, non c'è problema, al limite ti raggiungo io, via le Trieste, non lo so, vediamo un po'. Se non vuoi il numero te lo do, io non ho nessun problema a dare il numero, tanto io sono in regola, non c'ho problemi. Se vuoi te lo do il numero anche in frequenza, non ho nessun problema. Avanti, scusate per la monopolizzazione. Che problema c'è? Bisogna accordarsi a queste cose. Ma ti ha giudito, non se ne vai in macchina. Non serve più a niente, non c'è nessuno. Due chiacchiere sono più che sufficienti, via adesso. Io stacco, volevo andare a pulire i pesce, vi ascolto volentieri, tanto sono, non è molto distante la radio da dove deve, dove c'è la cucina, quindi vi ascolto e poi già riprendo dopo. Ok, vai Giulio. Ok, qua, d'accordo, dai. Vai pure a te di cucina. Sì, vai così, senza antenna non è possibile andare avanti. Io dico se mi stai ascoltando, ma suppongo di sì, perché io l'antenna ce l'ho. Per cui tu mi ascolti, ma io a te non ti ascolto. Sento il bisbiglio, ma non capisco l'accidente di quello che dici, non è nemmeno una sillaba, nulla di nulla. L'antenna che ti sta proponendo Gianni potrebbe fare anche a caso tuo, perché se te la metti nel davanzale sulla finestra e puoi anche farti sentire anche da me, perché non sarà delle migliori, perché necessità l'antenna deve essere sul tetto, però sul davanzale un'antenna di macchina piazzata a dovere dovrebbe funzionare ugualmente, almeno per farti sentire. Vedi un po', mettetevi d'accordo e se ti conviene te la prendi e ciccia, non se ne parla più. Avanti già, dai, intanto io non lo posso rilanciare a lui, tanto non lo sento, vai già. Sì, no, io ho l'idea che lui se no se lo vuole mettere in casa, se lo mette in macchina, si sposta con la macchina, se ne va in una zona alta e si mette a parlare con tutti, lo sento con tutti, perché io da casa con quella lì arrivo a Santiago 8, Santiago 7, anche se è piccola l'antenna, ti sento la Sassari, non c'è problema. E segnatelo 340 83 65 755. Eia, scusa un attimo, giù. Ok, già, d'accordo, vai vai. Quando mi chiama, e in questi giorni stavo sempre accendendo, non entrava nessuno, se entrava mi mettevano la portata, dei gusti. Ma se io accendevo e non per vedere se c'era qualcuno, non c'era mai nessuno, allora spegnevo di nuovo e poi andavo giù al computer. Ma purtroppo è così, in questo periodo è così, oggi, cosa volete dire? La gente o se ne va al mare, o per qualcuno che sta lavorando, eccetera, non si sente più nessuno. Qualche volta accendo anche la mattina, io, almeno prima qualche volta sentivo a Natalino, nemmeno lui si è sentito più. Natalino la mattina, però non la sera, la mattina. Cosa vuoi che ti dica? Sì, tornando al discorso dell'antenna così magnetica, io mi ricordo che Giovanna, la sorella di Pomponio, da Ossi addirittura la sentivo, metteva addirittura la magnetica sul frigorifero, metteva, e la sentivo io qua, sicché se lui dovesse attrezzarsi almeno di un'antenna magnetica e messa però in condizioni idonee, magari con una piastra sotto, che so io penso di riuscire ad ascoltarlo, almeno non dico fortissimo, però in maniera chiara che possa rispondere, se no non è possibile. Io sento solo il birbiglio, tu pensa che ho appena Santiago 2 di QRM, figurati se dovesse aumentare il QRM, non lo sentirei assolutamente, nella maniera più assoluta, nemmeno il birbiglio. Ma questo birbiglio non mi fa capire, è un accidente di una parola, nulla, nulla di nulla. Siete andati via, non c'è più nessuno? Ci sono io qua. È Gianni e Nicola? Ah, forse si sono contattati per telefono e non lo so cosa hanno deciso di fare, perché vi ha passato il numero di telefono, si sono chiamati e poi stanno discutendo, non lo so. Eia, va bene, va bene. Pure il tuo pesce, mamma mia, c'è un caldo in cucina, infatti mi dice, non si può fare niente a mettere un ventilatore, ma se ti pongono un ventilatore ti spegne i fornelli. Eh beh, sicuramente sì, ti hanno grido. In quel caso lì ci sarebbe voluta la piastra elettrica, ma d'altronde cosa ci vuoi fare? Non è possibile. È così qua, ma siamo arrivati al punto, quando mai dopo tanto tempo non riesce ad attrezzarsi di antenna? E a me dispiace, perché io non lo sento, sento un birbiglio, nonostante che ho solamente Santiago 2 di QRM, ma sento un birbiglio, ma è assolutamente incomprensibile, dunque non posso nemmeno sapere quello che sta dicendo. Ma non mi sembra che sia così né difficile, tantomeno così costosa un antennino. Molto ci vuole comprare un antennino e sistemarla in una maniera abbastanza discreta per farsi sentire. Io spero che lo faccia presto, boh. Sì, ma se c'è il poggiolo, l'antenna e la macchina è più che sufficiente, perché io mi ricordo Natalino da casa sua con l'antenna e la macchina, a casa arrivava a Santiago 9 qua, ed era in un vicolo. Arrivava a Santiago 9 con l'antenna e la macchina, quindi non ce n'è problema. Lui la zona anche molto aperta, la mette nel poggiolo, anche se al primo piano, con la base magnetica attaccata alla ringhiera, se c'è ringhiera, se non mette una staffettina, qualcosa, non lo so, se ha bisogno di consulenza, siamo qua, non c'è problema, io sono disponibile per tutti. Anche domani devo fare il lavoro a Torino, fatto bene come dico io. Cioè se c'è da dare una mano, si dà una mano, ma se non abbiamo il materiale, l'antenna e tutto quello che serve, io non mi buscio all'antenna. Questa di Gianni è una bella antenna, una buona antenna che usava in macchina, la mette nel poggiolo e le dà la possibilità di uscire bene, capito? Di farsi sentire, non dico che arriva il capo al mondo, però si fa sentire almeno. Beh certo, è quello che voglio io, che si faccia sentire, se no non è possibile poter dialogare con lui. E come faccio se io non lo sento? Non è possibile. È lo stesso discorso vale per quel ragazzo che abita lì dalle tue parti, come si chiama? Fabio, lo stesso, mi sembra. Anche lui, speriamo che quando rientra provveda a mettersi un'antenna anche lui per farsi sentire, perché qui non arriva proprio. Perciò non so fino a che punto ne valga la pena entrare in frequenza e farsi sentire solo da due o tre persone, e gli altri non si sentono. Non va bene così, assolutamente. Io so che con la Giovanna, la sorella di Antonello, da Ussi, con l'antennino magnetico attaccato sopra al frigorifero, eppure la sentivo io qua, bassa, però la sentivo in modo da poterci parlare o qua. Per quello lo fa anche lui, un sistema del genere. E non, sto aspettando da tempo, sono passati già 6 mesi e ancora siamo sempre nella stessa situazione. Ho come attaccato il baracchino perché questo a 2:20 fa un caldo allucinante. Allora ho riattaccato il baracchino che è bello fresco, già mi sento lo stesso, ho detto che va bene anche questa la modulazione. Sì, no, beh, Fabio qua è vicino a me e lo sento bene. Però ti ripeto, anche l'Altalino, quando aveva l'antennina piccola della macchina nella finestra, qua arrivava benissimo, lo sentivano da tutte le parti. Addirittura è che lui non poteva sollevare potenza, però arrivava anche a sorso. Quindi, avendo la posizione come Nicola lì, in quella via, che io conosco perché c'erano gli uffici dove lavoravo io, quindi so dov'è perfettamente, è una buona posizione. Se mette l'antenna della macchina, arriva benissimo a tutte le parti. Suppongo anch'io che è così, suppongo anch'io. Io mi ricordo anche nel primo periodo, mi ricordo anche Savilio, se mi ricorderai di Savilio, lui sulla ringhiera, sopra bottega, abitava lui al secondo piano, aveva messo l'antenna sulla ringhiera. Cosa ha fatto? Ha saldato una piastra, ci ha fatto saldare dallo zio, che è Fabio, una piastra, questa piastra 20 cm per 20, 25 per 25, all'incirca, così, e ci aveva attaccato, ha fatto un buco e ci ha messo l'antenna lì. Eppure qua mi arrivava che era una meraviglia. Cosa vuol dire? E se lui non provvede sarà sempre la situazione, sarà sempre quella, cioè quella di non sentirsi. Speriamo che lo faccia, speriamo, io me lo auguro, perché ho voglia proprio di ascoltarlo, di sentirlo, anche perché mi sembra una persona abbastanza buona, per cui non ascoltarlo mi dà anche un po' di fastidio, non sembra che io non lo voglio ascoltare, invece così ti posso assicurare, garantire e ti giuro che non lo sento, non c'è niente da fare. Come non lo sento io, non lo sentiva nemmeno il mio vicino di casa, un po' sfossato, guardando dall'altra parte, ma non lo sentiva nemmeno lui, ce l'aveva confermato quando parlava, adesso è già un po' di tempo, era il nostro amico, che anche lui non è più entrato in frequenza. Ci siamo sentiti un po' al telefono, ma niente di più. Sì. Ha avuto difficoltà anch'io ad ascoltarlo. Qua arriva a segnale 2, 3, ma a volte secondo dov'è, a Sassari, ho difficoltà anch'io ad ascoltarlo, quindi è un problema. Vabbè, piano piano si metterà a posto. Comunque, ripeto, un'antenna della macchina, che sia quella, che sia un'altra, funziona benissimo. Ti dà la possibilità di sentirti, di farti sentire, ecco, più che altro. Perciò va bene, io mi ricordo, a parte il fatto che io ne ho una a Sassari nella finestra, proprio come hai detto tu, nel marmo della finestra c'è una piastra di ferro, chiaramente non è né siliconata niente appoggiata perché è abbastanza pesante e grossa, al centro c'è una base magnetica, con un'antenna VHF di macchina, da quella 5 ottavi grande. Io sento quasi tutti i punti, figurati tu, perciò che problema c'è? L'antenna di macchina è un'antenna di emergenza che ti dà la possibilità di farti sentire, tutto qua. Vediamo un po' se è rientrato Gianni. Eccomi, ci sono, poi ne ho anche un'altra piccolina, quella del portatile che c'avevo, che poi ho venuto, mi sono tenuto l'antenna, quella magnetica. Se proprio dovessi decidere di piazzarla, ci metto quella, una grande. Ah, va bene, ma in macchina c'è una buona radio che c'ha qualche watt, 5 watt, 6 watt, va più che bene. Ehi, cosa di Bunibba ragioni e sta in Chivia a girare i bibidizi per fare due chiacchiere, tre per macchina. Io l'ho usato una volta, ma perché viaggiavo, poi una volta non ho viaggiato più, ne ho tolto tutto. Tu adesso non stai più viaggiando, per farti due chiacchiere appoggi la base magnetica piccolina, attacchi il barchino e ti fai due chiacchiere, e se no te li vai a casa salvo complicazioni, visto che poco fa appunto c'era portante. Porra! Torra sì, c'era portante, forte pure, aspetta, qua in campagna arrivava più di 9.20. A me mi arriva 9.30, più del 9.30, è già registrata, fotografata e tutto. Un bel forte, vabbè. No, ma no, non la stavano mettendo a te, stavano mettendo poco fa a Tonino. Avevo io Tonino e Giulia, stavano mettendo a Tonino, 9 più... Proprio lo copriva del tutto, non sentivo manco niente sotto, quindi vabbè. Continuiamo così che siamo a posto. Adesso c'è poca gente, d'inverno magari quando c'è più gente vuol dire che il baracchino rimane spento. No, non mi arrabbiaggio più con nessuno, basta così, tanto. Non fai niente e ti accusano, fai qualcosa e ti accusano lo stesso, sempre i fatti tuoi ti accusano sempre, alla fine. Tu vieni mi, sta come ti gioco, tranquillo, sereno, per i cazzi miei, non voglio sapere più niente di nessuno. Vai Giulio. E infatti forse è l'unica soluzione quella o qua, pensare di dimenticarti di un po' di persone, così almeno senti tranquillo, senza stare lì a stare sempre un criticato o deve rispondere, perché chiaramente sapendo certe cose rispondi e ti fai di animo cattivo, ma che te lo va a levare, rapigli tutto, fregati. A proposito, io sto continuando a usare questo, così non difetto non è fatto qua, il segnale dovrebbe essere un migliore anche di prima rispetto a quello che mi avevi detto prima, per cui come vedi in questo momento tutta la sera difetto che ha fatto quei giorni scorsi non l'ha più fatto, forse perché era sempre spento e l'accendevo così 10 minuti per vedere se c'era qualcuno, ma poi mi stancavo, non c'era nessuno e allora chiudevo, forse non aveva scaldato abbastanza e allora si era ripresentato quel problemino lì. Adesso sembra che sta andando bene, confermi. Un attimo, scusate che è arrivata gente a casa, non posso trattenermi, dai. Buon continuo con il SEO, ci sentiamo alle prossime, dai. Mi dispiace, ma devo chiudere. Ciao Gianni, ciao, alle prossime. Ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime, ciao. Eccoci, vabbè, no, non mi interessa più. Se no è che aspetta, mi sta sempre alla lotta, cazzo lotta. Non ci voglio andare a lottare con nessuno, voglio stare sereno, tranquillo, ma il baracchino non mi dà da mangiare. Quindi l'amicizia è bella, però mi sa che amici ve ne sono pochi. Molti conoscenti e pochi amici, senza sincerità e senza niente, senza coerenza e senza nulla. Buon esoro, apri la bocca e fatta a pezzi. Vabbè, chiuso il discorso. Vedi che c'è ancora vento caldo, cazzo. Sono uscito fuori nel frattempo, c'è vento caldo, c'è incendio da qualche parte, perché è impossibile. C'è un bel maestrale che sta tirando vento caldo. Sì, ma anche tutti i giorni ci sono fuochi, tutti i santissimi giorni. Anche nel circondario di Sassari, vicino, e dunque l'aria, il vento lo trascina, il calore lo trascina e qua si sente, altro questo si sente. Sì. No, stavo dicendo, quel difetto che mi ha fatto quei giorni scorsi non l'ha più fatto qua, sembra che sta andando bene adesso, non c'è problema, no? Sì, ma io sono a Targhero il 14 a salutare i miei, c'era un incendio enorme lì nella parte di Tortobello, Ormedo, quei posti lì, capito? Sì, un po' dappertutto, ma anche vicino a Sassari, addirittura l'altro giorno c'era fuoco qui sulla 131, devo immaginare, per cui più caldo di così, più vicino di così a casa mia, non era possibile, lo sappiamo, ma succede tutti gli anni comunque. Sopportiamo anche quest'anno, non c'è problema. E io vabbè, io dico una cosa, a me l'estate piace, perché piace, puoi uscire, puoi fare tante cose, d'inverno, non per il freddo, a me la pioggia dà fastidio, la pioggia. freddo, però anche quello ci vuole. Ma se fosse un'estate a temperatura normale di 25-26 gradi tutta l'estate, con un bel venticello sempre fresco di maestrale per dormire la notte, guarda, io metterei la firma per l'estate. Ma ogni anno è la stessa storia, è la stessa storia, tutto appiccicoso, caldo, non riesce a dormire, è un casino. Sì, sempre sudato, anche seduto senza fare niente. Poi se ti bevi un bicchiere d'acqua, allora se non sei sudato incominci a sudare, solo a bere un bicchiere d'acqua, perché c'è quel contratto lì, l'acqua che bevi col caldo, col polio, e ecco che inizia a sudare, anche se sei seduto nella poltrona, senza far nulla, senza fare nessun movimento. Purtroppo è così, è l'estate, lo sappiamo, è bello tutto quello che vuoi, ma quando il caldo è così alto, è così forte, allora è l'umidità più che altro che dà più fastidio di tutti. Non tanto il sole, quanto l'umidità stessa, perché è quello che ti fa sudare abbondantemente. L'altro giorno c'era umidità, un tasso di umidità al 97%. Al 97%, sai cosa vuol dire? Una cosa allucinante. Ero tutto appiccicoso, gli ho detto i minuti mi lavavo, ma come si fa a stare così tutta l'estate? Diventa un lavoro, capito? Diventa un tormento, una cosa allucinante, no, assolutamente no, qua, non vedo l'ora che abbassino le temperature e che arrivi l'autunno, capito? L'autunno, non dico l'inverno pieno, l'autunno, perché sono convinto che settembre e ottobre fa caldo normale, freddo, non c'è né caldo normale. Sì, ma è sicuramente così, in effetti con questa temperatura si soffre addirittura, si soffre proprio, capita, esci un attimino per andare al negozio a fare la spesa e ritorni tutto sudato, capita, non vedi il momento di sfogliarti e toglierti i pantaloni, per metterti i pantaloni corti e magliettina e possibilmente anche il petto nudo a casa, se vuoi immaginare. Non è possibile, purtroppo è così, pensate, da fastidio soprattutto l'umidità, quella è tremenda, più del caldo, perché se fosse solamente per il caldo del sole, io dico che tutte queste sudate che facciamo non le avremmo fatte, se non ci fosse tutta questa umidità, non è possibile qua, ma comunque, fatela anche quello. Se vuoi passa, se no si avvia gli occhi, non sarà un problema. Va bene, cosa vuoi ti dica? Quindi non c'è più nessuno. Nicola, ci sei? Nicola? Oh, io non sento nessuno. Figurati io, almeno tu poco lo sentivo, ma adesso... Ma forse che sia andato a incontrare Gianni per questo andennino, e chi lo sa, boh, non lo so, non hanno chiarito niente, per cui sarà così. Poco fa l'ho sentito, adesso non lo sento più, vuol dire si è spostato di zona. Sì, adesso ti sento proprio a livello di QRM, basso. No, non c'entra niente la propagazione, Nicola, portatilino l'abbiamo usato tutti, ci vuole l'antenna perché per portatilino. Una buona antenna e tu vedrai che arrivi in capo al mondo col portatilino. Io la porto Torrese con un pugno, 6 canali portatile, a quasi parlavo col Sassare, però avevo l'antenna sul tetto, perché l'importante è quello. Oppure del Poggiolo, non dall'entrocasa ti ascoltano quelli vicino. Se tu ti metti dentro casa io non ti sento, adesso sei uscito fuori e piano piano ti ho sentito, ma io sono più aperto rispetto a Giulio, capito? Giulio non ti sente per niente, vai giù. Sì, confermo, io non lo sento assolutamente, sento un bisbiglio, ma è un bisbiglio assolutamente praticamente come se non ci fosse questo bisbiglio nemmeno, perché non capisco proprio nulla, nemmeno una sillaba di quello che dici, nonostante che non c'è QRM oggi, figuriamoci se ci fosse un po' di QRM, sarebbe ancora peggio, nemmeno bisbiglio senti, purtroppo è così. E vedi di attrezzarti o Nico, perché se no non va bene, così non va bene, se ti attrezzi invece ci fai un favore e allo stesso tempo ci divertiamo anche di più. Ti diverti di più tu, così puoi entrare in qualsiasi momento e tutti ti ascoltano e ti ripartiamo un po' meglio tutti. In questo modo, se io non ti sento, quell'altro ti sente poco, quell'altro ancora magari non ti sente nemmeno, e così via, insomma, non è che va molto bene, la verità non va bene. Vabbè, dai, riprendi qua. Eia, KK, dai, riprendo e ti lascio. Ho visto che c'è gente sul 23, se vuoi continuare, gli amici del 23, io mi devo allontanare giù perché mi devo sistemare i cani, sono già le 8:20, non me ne ero manco accorto. Ho preparato la pappa, le 8 mangiano, mangia anche Pipedu, le faccio uscire un po', se no arrivi Meyer in casa che non ho sistemato i cani. Dai, ti saluto, grazie del chiacchiere, saluto Nicola, saluto tutti quelli che sono in ascolto, e niente. Ci aggiorniamo domani se Dio vuole, ok? Ciao Giulio, ti ripasso il cambio e saluto anche a Nicola. Ciao a tutti. Ok, ciao, grazie a te la chiacchierata. E anch'io allora sono costretto a chiudere perlomeno su questo canale, vedrò di fare un po' di questa greca nell'altro canale per sentire chi c'è e poi vedremo. Ciao Nicola, se mi stai ascoltando, purtroppo noi due non possiamo continuare perché, ripeto, io non ti sento, mi dispiace. Alle prossime, magari in condizioni migliori. Ciao Claudio di nuovo e ciao Nicola. Chiudo su questo canale, chiudo e passo sul 23. Ciao Giulio, ciao Nicola. Sì, vai al 23 che c'è Tore e compagni.